Savonarola, il frate che stuzzicò Firenze. Prose scelte. Un programma prodotto da Davide Giorgio per Radio Big World. Savonarola, prose scritte da Pasquale Villari, che fu deputato alla Camera per due legislature tra il 1870 e il 1882, e lette oggi da me, che non mi hanno candidato mai, neanche una volta, anche solo per fare il rappresentante di classe. D'altra parte, chi disse Parlamento disse guastamento, e felici voi galline che non andate a scuola. Serio, capitolo 13, Pierino la peste. Lo stato delle cose in Italia avrebbe dovuto sollecitare il re Carlo a partire, ma pareva invece che lo stato più naturale al suo animo fosse l'esitare. Quando tutto era pronto per agire, quando il tempo d'operare veniva, allora cominciavano i suoi dubbi. Come infatti si fu accertato che le popolazioni erano in suo favore, cominciò allora a vedere tutte le difficoltà dell'impresa. Ma ecco a Lione, dove il re si trovava, arrivare il cardinale di San Piero in vincola, che fuggiva dalla fortezza di Ostia, donde aveva prima minacciato e spaventato il Papa, e dove era di poi stato assediato e stretto in maniera che, trovatosi in grave pericolo, e si era appena potuto salvare con la fuga. Egli era quel medesimo che ascese più tardi al pontificato col nome di Giulio II, uno dei pochi cardinali che non avevano voluto vendere il loro voto al Borgia, di cui era nemico a morte e che chiamava sempre marrano ed eretico. Non si stancò mai di muovergli guerra, voleva raccogliere un concilio per farlo deporre, ed era uomo che negli anni, nelle fatiche, nei pericoli, sbigottirono mai. Venuto adunque alla presenza del re, le parole del cardinale furono tali che gli tolsero a un tratto ogni incertezza dall'animo e lo decisero finalmente a mettersi in punto di partire. Innanzitutto bisognò pensare a raccogliere danari, nei quali v'era in Francia grandissima penuria, sebbene Lodovico il Moro avesse già dato 200.000 ducati e facesse ora nuove promesse. Si ricorse perciò ai banchieri di Genova, pagando fortissimi interessi, e si impegnarono le gioie della corona e di vari signori della corte. Dopo ciò bisognò anche fare accordo con la Spagna e con l'imperatore per non lasciarsi due nemici alle spalle. Si fece adunque con la prima un trattato d'alleanza con cui si cedettero Perpignano e la contea di Rossiglione, che formavano la chiave dei Pirenei e che Luigi XI con molta fatica e gloria aveva conquistate. La contea d'Artois, altra conquista del medesimo re, fu ceduta all'imperatore, a cui venne rimandata la sua figlia, che era stata già da lungo tempo ripudiata dal re Carlo senza che la volesse mai rilasciare, malgrado le istanze continue del padre. Queste cose spiacevano naturalmente ai francesi, i quali vedevano l'onor nazionale gravemente compromesso dalla cessione di province così importanti, da trattati che offendevano la dignità del paese, da nuovi debiti che non si potevano comportare. Tutti auguravano perciò male d'una impresa disapprovata dagli uomini di guerra e di Stato, e per cominciare la quale era bisognato umiliarsi in faccia ai vicini. Non di meno, Iddio aiutava la Francia e la fortuna doveva esserle prospera, perché l'Italia non poteva fare alcuna resistenza. Le nostre armi erano cadute assai in basso, per non dire spente del tutto, e quella reputazione che i soldati del re di Napoli ancora godevano per aver combattuto alla spicciolata contro i baroni non era per far buona prova in campo aperto. I nostri famosi condottieri e capitani di ventura, che una volta con tanto onore avevano incontrato i soldati stranieri, che erano stati i primi a fondare la scienza della guerra e maestri a tutta l'Europa nella milizia moderna, erano ormai tutti spenti. I loro successori non avevano ereditata alcuna delle loro qualità, tiravano vergognosamente innanzi una guerra di mestiere in cui non si occupavano d'altro che d'accrescere la paga e risparmiare la vita. Erano i tempi di cui Niccolò Machiavelli raccontava che spesso due eserciti combattevano per più ore senza che alcuno vi morisse di ferro, e perivano solo quelli che, caduti, erano pestati dai cavalli. Allora la forza degli eserciti italiani consisteva quasi unicamente nella cavalleria. Il cavaliere poi ed il suo cavallo erano così gravemente armati che una volta caduti riusciva quasi impossibile il potersi rilevare senza aiuto. La fanteria era invece troppo leggera ed appena si erano introdotti l'archibugio e la picca, combatteva sparsa per la campagna o dietro i fossati e gli argini, e quando si raccoglievano le schiere erano larghe di fronte e strette di fianco, facilissime quindi a sfondarsi. Le artiglierie, poche e pesanti, tirate dai bovi, difficili a caricarsi, con palle grosse e per lo più di pietra, facevano pochissimo danno. L'esercito francese era invece modello di quanti se ne vedevano in Europa. Migliorato secondo tutti i progressi dell'arte, la sua forza consisteva principalmente nella fanteria, che camminava in ischiere grosse e serrate, le quali con un numero grandissimo di nuove manovre si disponevano facilmente in tutte le guise con agilità incredibile di movimenti. Aveva nell'avanguardia 8.000 svizzeri e nella cavalleria era la più ricca nobiltà di Francia e la più bella gioventù di Scozia, onde l'emulazione ne cresceva la forza. I francesi avevano anche le migliori armi che si lavorassero allora. Splendeva la loro fanteria di bellissime alabarde e picche, ed in ogni 1000 fanti v'erano 100 fucili. Oltre le colubrine e i falconetti portavano 36 cannoni, che erano tirati da cavalli, sopra 4 ruote, 2 delle quali si smontavano per metterli in batteria, ed andavano quasi di pari passo con la fanteria, il che era in quel tempo tenuta cosa meravigliosa. Il valutare con precisione il numero di questo esercito riesce quasi impossibile, perché gli antichi scrittori sono sempre inesatti sopra tali materie ed il loro uso di numerare per uomini d'arme ne accresce non poco la confusione. Non di meno i più stimano che Carlo VIII comandasse 22.000 fanti e 24.000 cavalieri e che, unendovi tutta la gente che lo accompagnava e i soldati del Moro che dovevano raggiungerlo in Italia, le sue forze potessero ascendere a 60.000 uomini. Il re Alfonso di Napoli si apparecchiava dal suo lato alla guerra con tutta l'attività e le forze di cui era capace. Don Federico, suo fratello, andava con l'armata ad assalire Genova, dove si raccoglievano le navi di Francia. Don Ferdinando, duca di Calabria, assistito dal conte di Pitigliano e da Gian Giacomo Trivulzi, capitani rinomatissimi di quel tempo, avanzavasi nelle Romagne per allontanare la guerra dai confini del regno. In tale stato di cose tutto spingeva il re Carlo ad affrettare i suoi movimenti e quei medesimi generali che avevano contrastato l'impresa ora la sollecitavano, persuasi che l'indugio non avrebbe fatto che peggiorare le sue condizioni. Ma appunto allora il re cominciava di nuovo a dubitare e perdersi in mille incertezze e gli sembrava aver quasi del tutto mutato il suo animo, tanto che alcune delle sue genti che già si erano poste in moto ricevettero ordine di retrocedere. Allora il cardinale di San Piero in vincola presentossi di nuovo e le sue parole furono quasi violente. Egli accusò il re di mettere a repentaglio non solo il proprio onore, ma quello anche di tutta la nazione. E il suo impeto fu tale che vinse ogni incertezza. Così, finalmente, il giorno 22 agosto 1494, il re e l'esercito si mossero. Per il Monte Ginevra andarono ad Asti, dove vennero loro incontro il Moro con la moglie e il Duca di Ferrara. Tra le feste e le donne, Carlo dimenticava nuovamente la guerra e si abbandonava in moda ai piaceri che, ammalatosi gravemente, fu costretto a fermarsi per un mese. Da Asti andò a Pavia, dove visitò l'infelice Giovan Galeazzo, che nel fiore degli anni consumavasi in un letto, e udì i lamenti della moglie di lui, che gettandoglisi ai piedi raccomandava a calde lacrime il loro stato infelice. Parve che il re si commovesse grandemente, tanto che promise a quel principe aiuti efficaci, ma non era appena da Pavia giunta a Piacenza che ivi gli pervenne la nuova della morte di quel giovane, e la fama riportava esser seguita per veleno amministratogli dal Moro. Tutto l'esercito era indegnato di questo fatto, perché vedeva con che sorta d'alleato si aveva a fare. Il re solo pareva non darsene alcun pensiero. Egli, caduto un'altra volta nelle sue incertezze, non sapeva se prendere la via di Romagna o procedere per la Toscana. E in questo mezzo si fermava di nuovo e davasi nuovamente ai piaceri. Intanto arrivavano da tutti i lati notizie di fortuna prospera ai francesi. In Romagna, ove già era stato mandato il valoroso generale d'Aubigny per tenere a bada i napoletani, egli aveva saputo, con poca gente e senza venire ad alcun fatto d'armi, stancarli in modo che già si ritiravano nel regno. A Genova il duca d'Orleans aveva potuto, con una flotta assai maggiore, obbligare Don Federico a retrocedere. Sbarcò poi a Rapallo, dove era piccola guarnigione di napoletani, un certo numero di svizzeri, che, aiutati dalle artiglierie delle navi, poterono prendere la terra, metterla a sacco e a fuoco, passare a fil di spada non solo la guarnigione che si arrendette, ma tutti gli abitanti e anche 40 malati che trovarono in letto. La nuova d'un tal fatto sparse un terrore indescrivibile per tutta Italia, dove questo modo feroce di guerreggiare era insolito e sconosciuto. Ogni città, ogni più piccolo borgo si immaginava d'avere a dividere la medesima sorte dell'infelice Rapallo, ed il nome dell'esercito francese ne diveniva terribile e il suo cammino si rendeva sempre più libero da contrasti. In questo medesimo tempo arrivavano al campo Giovanni e Lorenzo de' Medici, cugini di Piero, che s'erano dati al Partito Popolare e, fuggiti dalle ville ove erano stati confinati dal fratello, venivano ad assicurare al re lo stato della Toscana essere tutto favorevole al passaggio dei francesi. E così l'esercito, messosi finalmente per la Lunigiana, procedeva oltre lungo la Magra. Giunti innanzi al castello di Fivizzano, i francesi lo presero d'assalto e emularono le crudeltà degli svizzeri. Ben presto però si dovettero accorgere d'essersi messi per una via piena di pericoli. Essi erano in un paese sterile, chiusi a sinistra dai monti, a destra col mare tenuto ancora dal nemico, ed in fronte avevano le fortezze di Sarzana, Sarzanella e Pietrasanta, le quali con piccola guarnigione potevano facilmente chiudere il passo ad ogni più formidabile esercito. Se Piero de' Medici avesse ardito prendere qualche forte provvedimento, egli poteva anche in su quell'ultima ora respingere i francesi con loro gravissimo danno e vergogna. Ma sembrava davvero che la provvidenza guidasse miracolosamente quegli eserciti alla nostra rovina e che, malgrado la stolta indolenza del re e il niun provvedimento d'ogni cosa più necessaria, tutto dovesse riuscire per loro a prospero fine. Intanto la confusione era a Firenze grandissima. Il Partito Popolare aveva sempre parteggiato per Francia, ma la pazza politica di Piero aveva fatto avanzare il re da nemico, onde il paese ne andava a sacco ed a fuoco. Che fare adunque in tale stato di cose? Aprire la via quando si potevano chiedere patti sembrava imprudenza e viltà. Chiuderla era un dichiarare la guerra. Il governo della città trovavasi intanto nelle mani di Piero, autore unico di questi disordini. Tutti stavano perciò a guardare che partito egli fosse per prendere, e nel comune pericolo ognuno si compiaceva di notare il suo smarrimento e la sua confusione. La condizione di Piero era infatti peggiore di ogni altra. Il nemico vittorioso e vicino era contro di lui personalmente adirato. Egli, senza danaro, senza alcuno che volesse dargliene, col paese avverso, aveva perduto ogni consiglio. Mandò Paolo Orsini con alcuni cavalli e 300 fanti a rinforzare la guarnigione di Sarzana, ma subito dopo, crescendo la paura, si decise di presentarsi al campo del re e chiedere egli stesso la pace. Questo doveva essere una imitazione del viaggio che Lorenzo suo padre fece a Napoli quando si mise coraggiosamente nelle mani di quel re per ottenere patti onorevoli. Ma le imitazioni riescono assai difficilmente e Piero, facendo per paura ciò che Lorenzo aveva fatto per coraggio, riuscì a lui in umiliazione e rovina quello che al padre era risultato ad accrescimento di potenza e d'onore. Fatto sia dunque accompagnare da ambasciatori della Repubblica, se ne andò a Pietrasanta, ove subito seppe come Lorsini, incontrato per via da alcuni francesi, era stato disfatto. Cresciutogli perciò vieppiù il desiderio di ottenere la pace a qualunque costo, mandò a chiedere un salvacondotto e, ottenutolo, si presentò al campo. Ivi trovò che il re e l'avanguardia battevano invano da 3 giorni il forte di Sarzanello. Ogni altro uomo si sarebbe vantaggiato della sua posizione e del grave pericolo in cui era l'esercito nemico, ma egli non poté mai uscire dal suo smarrimento, anzi ne fu sempre più dominato quando vide la fredda e severa accoglienza fattagli dal re. Senza neppure interrogare gli ambasciatori che lo accompagnavano, cedette con una stoltezza veramente incredibile tutte e 3 le fortezze, dando immediato ordine a chi le teneva di consegnarle ai francesi, i quali subito ne presero possesso. Prometteva anche di somministrare danaro e di cedere le fortezze di Pisa e Livorno, e ciò sino a guerra finita. Padroni ormai del territorio toscano, si avanzavano i francesi rapidamente, non credendo quasi alla loro medesima fortuna che così miracolosamente li aveva cavati di tanti pericoli. Divenne fra loro universale l'opinione che la provvidenza aiutava questa impresa, e vi prestavano fede non solamente i soldati, ma anche i generali e più di tutti il re stesso, che si era convinto di essere davvero quel nuovo Ciro che il predicatore di San Marco aveva annunziato. Intanto gli ambasciatori che avevano accompagnato Piero, senza più far parola né a lui né al re, partivano adirati e correvano a Firenze, dove trovavano ogni cosa già piena di disordine, di confusione e di sdegno per le nuove già arrivate delle fortezze così vilmente cedute.